Come procede? Facciamo lo stesso giro di prima. Dunque, dopo quanto è stato detto da vari di noi, mi sembra che squalificare il concetto di auto-organizzazione facendo riferimento al Vermont sia una diciamo trovata retorica, che però non mi sento di accettare dal punto di vista del metodo. Stiamo appunto cercando di chiarirci e anche di dichiararci su un fatto così centrale per la nostra discussione. Si tratta niente di meno che del peso da dare al sociale, comunque si esprima in una direzione o nell'altra. Noi stiamo cercando di dare una direzione, anzi stiamo cercando di pensare una sinistra sociale prima ancora che politica, e questo è un atto politico. Sulla strattezza dei concetti di Stato e società sono già state fatte delle osservazioni da Aldo che condivido. In generale, rispondo su un primo punto a un'osservazione fatta sul movimento anti-utilitarista, anche la seconda attraverso il dono riguarderà l'anti-utilitarismo, la seconda sarà una risposta a Burgio. Ecco, mi sembra, per frequentazione ormai più che decennale dell'anti-utilitarismo, che sia una forma di pensiero tutto salvo che autoreferenziale. In primo luogo si tratta di una critica dell'economicismo implicito nelle scienze sociali, quindi ha come oggetto dei discorsi constatabili, ed si tratta di una critica verificabile o falsificabile, se preferite. Dall'altra parte si tratta dell'accumulo di un sapere storico-antropologico che, come accennavo prima, riguarda la storia delle società nel loro complesso e la possibilità di esercitare un comparativismo. L'interesse di un comparativismo storico per quel che riguarda la società capitalistica nelle sue varie fasi è evidente. Significa sottrarre queste forme di società all'idea che siano naturali, necessarie, immodificabili. Quindi è un contributo critico quello del pensiero antiutilitaristico, che ha anche un versante propositivo, costruttivo. E qui vengo al punto del dono, che inevitabilmente in tutte le occasioni scatena reazioni passionali forti. Il dono in antropologia, in storia delle società, è un fatto molto tecnico. Prima, per abbreviare, ho detto coincide col legame sociale. Allora, alla domanda di Burgio, chi mi garantisce che l'elargizione avrà la sua contropartita, c'è una risposta che consiste nella definizione stessa del dono. Il dono è un triplice obbligo di dare in certe circostanze all'altro, per l'altro di ricevere nelle stesse circostanze, e per chi dona di reciprocare, di restituire. Ogni volta che si omette uno di questi passaggi si mette in discussione non solo lo scambio immediato di un oggetto, di un bene, di un feticcio, ma si mette a rischio lo scambio sociale. Ora, da un punto di vista combinato antiutilitaristico e polaniano, tenere presente questa dimensione, questa terza dimensione fondatrice del vivere sociale, non esclude la considerazione degli altri due aspetti storici, che sono tutt'altro che astratti, sono ben corposamente presenti in quanto ordinatori della nostra vita, come delle nostre vite, come lo Stato, o regolatori delle nostre sussistenze, come il mercato. Ecco, si è parlato molto, è stata introdotta la tematica molto pertinente, molto forte dell'intreccio. Io ho parlato di ibridazione. Ecco, secondo me Burgio non ha una grande sensibilità né per la trasformazione in corso né per la grande trasformazione precedente come descritta da Polanyi. Il suo pensiero non è abbastanza dinamico, mi sembra. Dice l'affermazione dei diritti, che ovviamente è condivisibile, mette forse in ombra o comunque toglie dal centro della discussione e della riflessione forza travolgente della trasformazione. E noi stiamo ancora passando per una trasformazione che stenograficamente chiamiamo dal fordismo al postfordismo, e stiamo cercando affannosamente, nella mutata composizione sociale, degli strumenti anche concettuali, oltre che delle modalità di azione pratica, quali quelle che in parte sono sperimentate nei centri sociali, per far fronte, per fornire un pensiero politico all'altezza della trasformazione che si va compiendo. Sono state evocate le nuove figure sociali e i problemi di rappresentanza o di rappresentazione che queste pongono. Il punto di vista antiutilitarista polaniano si può sintetizzare nella possibilità di pensare diversi intrecci. Quindi non è affatto un punto di vista regressivo, di nostalgia comunitaria, come viene spesso detto polemicamente, o addirittura di regresso alla capanna nel Vermont. Si tratta soltanto di valorizzare politicamente questa terza cosa, che non è il terzo settore, ma che è una forma di scambio e coincidente con il legame sociale, in modo che, come cercava di fare con altri mezzi Polanyi, la società riprenda il controllo dell'economia. Centrale nel pensiero di Polanyi, e quindi per questo ho fatto riferimento alla grande trasformazione, alla trasformazione che precede la nostra, è il concetto di disembedded, cioè di tolto dal letto del fiume. L'economia, ma e questa è una storia corta, una storia breve che copre vari decenni tra l'Ottocento e il primissimo Novecento, l'economia ha preso il comando, c'è una forma di totalitarismo economico che ha preso il comando sulla società. Quello di cui stiamo parlando è, nelle condizioni che sono mutate dalla fase proto-keynesiana in cui scriveva Polanyi, è come aiutare attraverso, e per questo usiamo il termine di auto-organizzazione, di autoproduzione anche sociale, la società a riassumere il controllo sull'economia, voglio dire mercato, allora una cosa molto concreta, riducendo anche quella terza componente statale di cui Marco ha tracciato il profilo e ha ricostruito la storia tutta recente, per niente neanch'essa né necessitata né eterna. Ecco, questo volevo dire.